stessa tra di testa. La vecchiaia incombe, sto diventando rincoglionito. Ma Natale, io dico questo, se tu sei stato in campagna, ci avresti mosso di più. Perché? Perché avresti avuto il posto dove fare tutto ciò che vorresti fare. E che lì non puoi fare, giustamente. E chi su muro, Gli auguri da noi, ogni Natale, se non ti non puoi fare nulla, è così quando si abita in condominio, quello dai qua. Io vabbè, c'ho un terrazzo grande, però sei sempre vincolato comunque, capito? Non è che in campagna è tutta un'altra musica. Avevi fatto un blinto pure per punire il draliccio, cazzo, ma che cazzo, la che mi ha pigliato. C'ho, lì c'ho la mantova a 5, sopra un palo da 12 metri, e c'è il dipolo dei 45, che non usavo, perché no. Poi c'è la D5 RV. E ancora piazzata anch'io, la Daimon X300, il trombone per le VHF, due direttive ci sono, sai che mi ha pigliato, che meglio. C'è perché non sa tutto, chi mi sibilia a Luigi Piro. È vero, mi sembra che non ti mangia avvocato tutto, così. A me, cosa me ne sbatte? Tanto lì non ci andrò mai. Perché ne sono uscito male dei conti con quei due bastardi, perché quelli non sono fratelli, sono due bastardi. Hanno a giudizio cazzo, ma a me può pure morire, anch'io vedo, no, a rubare. A chi lo fa vedendo quell'altro? Ma tu mica i nomi, mica cazzina tutti, la giudizio, proprio così, col piccolo stavamo arrivando a Armani, un giorno che sono salito, non mi ammento bagosa, eppure mia moglie, no, che di robodino, di bugazzardi, per quello che io non ci voglio salire, anche da voi, cazzo, sono anche armato, io non si sa mai che posso fare qualche stronzata, capito? Perché io sono un fumantino, è meglio non contraddirmi quando sono adirato. Come sei colorito? Sì, anche colorito sono. Mamma mia, come sto? Ho attaccato lo scaldabagno così poi mi faccio il bagno a immersione. Voglio sparire, voglio tirare, tolgo il tappo della vasca, voglio sparire assieme all'acqua. Bello, nel nulla. E vuoi che ti dica, Marco lì? Oh, via. E poi io? Me la volevo prendere legalmente, perché volendo non è questione di cose, i soldi ce li ho, volendo me la compro, però cazzo voi tutti gli dici la comparata che ho preso, a chi sono più bettegoli c'è niente. Natali, adesso cambiando discorso, l'altro giorno mi avevi detto, non so, tale e tale, non mi avevi risposto perché non mi ricordo chi era quella persona, non c'entra il discorso di adesso, è un'altra cosa. Bisogna che vai su quell'altra frequenza e me lo dici, perché adesso non mi sovviene la situazione. Adesso accendo, aspetta. Ma non il PMR, quella dove vediamo le fotografie. Sì, quella dove c'ho stazionari alte e sono senza accordatore. Vabbè, già andrà a mettere la potenza al minimo. Sì. Attivo il PMR dove puoi fare. No, non c'ho nulla, non ne ho neanche PMR, no, non posso. Non posso operare, là. Ah, non ne hai, capito. Natale, tu sei dopo maladucato e fa vedi già salito. Ma com'è la non si telecco? Se avevo vedo l'intelecco, guai. Non ti viene voluto, che se no fa vedi un tedesco. Ogni scusa è buona. Sta viene chiamato, un tedesco. Che studiare, ma roba da chiudere. a me mi piace farmi di ex, sperimentare, un po' come piace a te Luca, a me. Che vuoi che ti dica? Ma poi grazie a Dio oggi esistono anche apparecchiature come appunto la 93 di antenne e tante altre apparecchiature che ti aiutano parecchio, capito? Ti aiutano parecchio. Sì, lo so. E purtroppo, e cosa vuoi fare? I nomi non puoi fare nulla, che mi sono accallonaomi, come dicono a Cagliari. C'hai perfettamente ragione. Gli auguri. Io ti voglio nemmeno capillare a voi, a provare il contrario, e chi sono così? Aspetta Luca un attimo. Chi è che si sta trappando il cervello? Questo di sopra. Luca. Dimmi. Sì. Cappa. Via. Va bene. Però vabbè, anche io gli avevo detto a Natalino se davvero quella volta, non quest'ultima, ma quella volta il compito era buono. Gli altri che avevo copiato, tre promossi e lui bocciato, avrei fatto ricorso. Quello è un concorso pubblico, quello che è. Se ci sono maneggiamenti strani, giri strani, lui dice ma poi bocciano gli altri che hanno promosso, cioè annullano le già tutti. Cosa me ne frega a me degli altri? Vabbè, se lui riteneva di essere stato danneggiato, dai, ingiustamente. Marco, Adriano, rispondi. Oppure la risata te ne stai facendo. No, aspetta un attimino che no, è già acceso, aspetta. Bianco per me. Quello è. Ok, adesso ho fatto mente locale, dai, che nella famosità dei miei ricordi non è. Che tolto sembra uno con l'Alzheimer precoce, e può darsi che sia così, eh? No, è così. Se vuoi dire un po' tu unicica, che dire, ma appuntamento andiamo a questa cosa. E così te lo faccio conoscere, è un amico, eh. Chiappa. Mamma mia, è lunga la giornata, e oggi cosa mi invento da mangiare? Chissà che faccio il pollo, cosa cosce di pollo bello arrosto, belle in pesce. Ah, io non lo so cosa cucinare, farò pasta asciutta al ragù, ci metto quelle fettuccine, mi. Poi c'ho un po' di salsiccione. Sì. Le babbe. C'ho un po' di salsiccione, così ne giochisso, buru. Verrà a pranzo quel dirimpettaio lì, quell'amico mio. Natali, guarda, ti ascolta, ti vuota. E vedo tu, buongiorno. Buondì Giulio. Ciao Marco, ciao Luca e ciao Natalino. L'ultima non la sapete, no? Per l'alluvione dell'Emilia Romagna, la colpa è di Meloni, del governo Meloni. Secondo uno scrittore, un certo imbecille chiamato Saviano, non è possibile, scrittore poi, si può immaginare che grazie al scrittore può essere uno che addossa le colpe al governo Meloni perché è successa l'alluvione in Emilia Romagna. Strano, vai Marco. Cosa che ha fatto all'inizio all'esordio, però adesso mette l'inno su tutto, mette bocca su tutto. È come che la Meloni avesse fatto la danza della pioggia, avesse fatto piovere apposta lei. E ascolta. Eh sì, ma infatti certi personaggi è come che non esistessero, oh Giulio. Saviano, chi è? Nessuno. Può abbaiare al vento, che buh. Solo uno scrittore, negozionalista, non fa altro che criticare tutte le colpe, tutto quello che succede, sempre la colpa del governo Meloni. Un governo che ha l'attivo da 6 mesi appena. Quando l'Emilia Romagna l'ha costruita da sempre, sia prima il Partito Comunista e poi il PC, che sono sempre comunisti praticamente. E lui vuol dare la colpa a Meloni, la colpa di Meloni perché c'è l'alluvione in Emilia Romagna. Che fenomeno questo deve essere. Poi c'è un bravo bravissimo scrittore. Io nemmeno per carta igienica l'avrei usato i libri che scrive lui, questo è deficiente. Ah, boh, dai, avanti Natalia, avete parlato per un pezzo insieme, ecco Marco, vai Natalia. Ah, infatti, io mai ne comprerò e mai ne ho comprato libri di quello lì. Cazzo, c'è sempre Sarda Rossa, l'Emilia Romagna. Cazzo, sono loro che hanno fatto le cose che non dovevano fare ed è successa l'alluvione. Perché c'è stato un disastro idrogeologico lì. È una vergogna, ma sentire certe affermazioni da quelle persone che vengono considerate intelligenti di stupidità, questo sì, non ci sono dubbi, è una vergogna veramente, che uno scrittore, uno che scrive libri, possa affermare una teoria del genere. Cose dell'altro mondo, guarda, non è possibile. Quando l'Emilia Romagna da sempre, da quando mondo è mondo, è stato trattato di comunista, sempre. E oggi la colpa solo perché questa donna sta amministrando da 6 mesi e poi tra l'altro sta facendo anche delle cose abbastanza buone in base al budget che ha l'Italia, perché al momento già lo sai, soldi non ce ne sono, visto e considerato che tutti quelli di sinistra se l'hanno mangiata l'Italia, prima ci hanno mangiato l'Italia, adesso ci vogliono mangiare anche le persone, questi bastardi. Vai Luca, ci sei. E forse Luca si è spostato. Cosa ti volevo dire? Ma è vero, infatti, saremo magnato, chissù chi non abbiamo, e c'è ma che c'è un punto, proprio baghissù, perché sono dei ladri, si hanno mangiato tutto questi comunisti. È una categoria di persone talmente merdose, caspita, che anche la puzza si sente dall'estremo oriente quando passano quelli, questi deficienti stronzi che non sono altri. Vai Marco. Vabbè, è diventato anche lui un altro tuttologo, no? Lui mette a bocca su qualsiasi argomento e voleva ragione. E lì le cose andavano fatte negli anni, anche dragato, quello che è ripulito il fondale per evitare punti di, come dire, quando c'è un po' di impedimento nel normale scorrimento del flusso d'acqua, poi comunque sia, anche pulendo i fiumi come voi, io l'ho sentito da una ragazza che conosco, che l'ho sentito anche ieri, dice che c'è stata una bomba d'acqua tale che anche se i fiumi, i corsi d'acqua fossero stati fermi, era una portata d'acqua tale, proprio tipo un bifragio, che comunque avrebbe reso andato lo stesso i fiumi. Capito? Non c'era niente da fare. Dice una cosa impressionante, che tu praticamente non vedevi il palazzo di fronte da quanto l'acqua era fitta. Una cosa terribile ha detto. Lei è in Emilia, no? La zona Reggio Emilia o non mi ricordo esattamente dove, non è proprio nella città grande, è una frazione. Ma se mi ha mandato un video che Emanuela, la moglie, la figlia di Gianni, sta a Bologna proprio, e mi ha mandato un video com'è la situazione sotto a casa di Emanuela. Se non ti buono rimane in campo, noi ci di casa, ci dragineggia pure a te. Basta pensare che la precipitazione è stata calcolata di 45 centimetri di spessore a metro quadrato. Adesso moltiplicano per i chilometri quadrati che c'è in tutta l'Emilia Romagna e poi immaginiamoci quanta quantità di acqua ci può essere stata. E il imbecille di Saviano, oh, ma era ma tanta gente, anche come quell'altro imbecille che la volta scorsa, ti ricordi, quel Bonelli, come accidente si chiama, che era andato e aveva protestato il Parlamento, aveva portato le pietre, perché non pioveva, la colpa era di Meloni. Basta, è una cosa, ma ti puoi immaginare in mano a certa gente siamo, rendiamocene conto Marco. E vabbè, ma io dico, chi è Saviano? Nessuno. Si scrive cose per conto proprio e auguri, peggio per lui, se si crede sono autocelebrativi questi scritti, capito? Se la scrive, se la balla, se la ride da solo. Sì, ma non si può accettare una demagogia del genere, non si può, perché ci sono quegli imbecilli come lui che ci credono, e sono numerosissimi le persone imbecilli, Marco. Il problema è questo, che fanno danno, questa gente quando parlano così e fanno certe affermazioni, fanno danno, perché? Perché ci sono altrettanti imbecilli come lui e anche più di lui. Per cui si convincono di quello che lui dice, ecco qual è il problema. Avanti, Natalino. Natalino sta cucinando, secondo me, Natalino. Sicuramente. Lasciamolo cucinare, già rientrerà. Vediamo se rientra Luca. Luca, che tu stai cucinando? No, Luca è sparito, proprio sparito, non c'è. È uscito, è andato a fare la spesa, anche se di domenica sta piovendo. Vabbè, dai, Marco, riprendi. Ma perché sta piovendo? Qua non sento niente qua. Qua non piove girando, sta, dai. Non è che sia forte, è debole, però sta piove girando. Per cui c'è il tanto di bagnarsi, se esci fuori c'è il tanto di bagnarsi, no, non c'è problema. Non ci facciamo mancare niente in questo periodo a riguardo dell'acqua. Per cui va bene così. Oggi l'altra notizia ancora più stupida e poco aggiornata è questo è il difetto della RAI. Io stamattina alle 6:30 ho ascoltato le notizie sul Rai 2 Radio, Radio 2, e ha detto che oggi a Sassari c'era la cavalcata sarda con 200 cavalieri e oltre 2000 presenti alla sfilata. Puoi immaginare qua. Ma quando mai la RAI non deve essere aggiornata, che la cavalcata è stata rinviata non so a quale data, forse al 6 del mese prossimo, boh, non lo so, anche quella è una notizia sbagliata, e questa è la RAI, Probabilmente non si è aggiornata. Poi, dopo tutto non c'è questo maltempo, però sai, magari temevano peggio con questa storia dell'allerta meteo, già l'alta gialla, mi pare, Sardegna, l'ho letto ieri, ma ha semplicemente piovuto di notte, sì, adesso piovigina leggermente in certe parti come in zona tua, ma avrebbero potuto anche farla, ma non si sono fidati, dai, dice non sia che succeda qualcosa tipo un nubifragio, allora è più seccante. L'hanno rimandata all'inizio di giugno, marzo, aprile, maggio, giugno, sì, non mi ricordo il giorno, vabbè, comunque rimandata, dai. Sì, se ricordo bene il 6 giugno dovrebbe esserci, ma non sono sicuro, e comunque dovrebbe essere intorno al 6 giugno, vabbè, dai, comunque. E hanno fatto bene, sì, a rinviare la sfilata, perché non era possibile una giornata come quella di oggi presentare una cavalcata. No, non è assolutamente possibile, è meglio trovare una giornata più bella. Avranno tenuto conto anche del meteo, per cui hanno deciso che dovrebbe essere il giorno sì, ma perlomeno così mi ricordo. Va bene, dai. Ma stavo guardando il calendario e il giorno 6 risulta essere un martedì. Non farebbero un giorno feriale, boh, che strano. Non lo so, non sono sicuro, ti ho detto, io credo di ricordare il giorno 6, ma non ne sono sicuro, Marco. Sarà se il giorno 6 è martedì, allora sarà il 4, non lo so, oppure la domenica successiva, non te lo so dire, ma comunque siamo lì, Allora in regia mi dicono che è il 4 giugno, che è domenica. Sì, 4 giugno è domenica. Ok, buono a sapersi, grazie dell'info. Appunto, io non mi ricordavo la data bene, adesso me lo stai dicendo tu. memoria, ma ripeto, non mi ricordo la data di aver letto, perché ho letto solamente che era stata rinviata per il prossimo mese, ma mi ricordavo all'incirca il giorno 6, una cosa del genere, comunque nei primissimi giorni di giugno, dai. E va bene. Natali si è rientrato? No, non rientra Natali, vuol dire che è indaffarato. Luca, la graviglia si è muovendo, no? Tu sei sempre chiuso della graviglia. Sì, sempre con Luca te la pigli, perché lui c'ha la graviglia e tu no. Già ce l'ho anch'io, però lui ce l'ha autocostruita, e poi c'ha anche il girarrosto, c'è tutto. Lui ce l'ha completata, ce l'ha fatta in maniera particolare, per cui, ma sono curioso, capita. No, sai cos'è? Io sono comandone, ho sentito il barbecue, io ce l'ho un piccolo barbecue da mettere fuori, in terrazzo. Però in una giornata come oggi non mi azzardo, mentre il Guide si aveva fatto anche l'attrezzatura per coprire la veranda dove accende appunto tutto, per cui lo può fare, io qua non lo posso fare, che piove in terrazza. Va bene, dai, vai Marco. Sì, Natalina, all'entrata adesso facciamo venire avanti. Cosa volevo dire? Una volta, Giulio, una cavalcata l'avevano fatta sotto la pioggia, cioè ormai tutto era organizzato, e ha cambiato il tempo, la domenica, e praticamente le persone in costume erano con l'ombrello. È brutto così, è brutto, perché poi è tutto più brutto, cielo coperto, cioè è un peccato, però l'avevano fatta. Vai Natalì. Ti prendo io, dai. Certo che sì, perde tutto il fascino della giornata festiva con l'ombrello, ti puoi immaginare. No, sembra una sfilata da zombie quando vai in giro con l'ombrello, ci mancherebbe altro. No, hanno fatto bene a sostarla. Le condizioni meteorologiche anche quel giorno non sono buone, io l'avrei sfruttata ancora essendo io il sindaco, ma siccome non lo sono e non me ne frega niente, anzi ti dirò che sono tanti anni anche che non vado nemmeno a vederla la cavalcata, pensa un po' Marco. Sì, ma infatti anch'io dopo 50 anni di cavalcata ne ho le tasche piene, non vado nemmeno più a vederla, magari vado a vedere le bancarelle, quello sì, seppure la cavalcata ha la sua memoria, cioè un anno avevano aggiunto anche un gruppo di africani vestiti con i vestiti classici, c'era questo scambio culturale, no? Con i vestiti classici dell'Africa, no? Quelli un po' variopinti. Io ho detto, questo è il gruppo di Cagliari. Uno mi ha guardato malissimo, sicuramente era di Cagliari, uno spettatore mi ha guardato malissimo. Beh, l'allusione era anche giusta, Dunque, loro non sono africani. Vabbè, dai, no, non possiamo essere, dobbiamo essere solidari con tutta la regione, perché tutti sardi siamo, per cui non c'è problema. Sì, è vero, anche questo particolare mi viene in mente, adesso che tu me l'hai ricordato, c'è stato un periodo, un anno, non so a quale anno risale, che appunto c'erano anche gli africani alla filata, che poi non capisco con quale idea e pregiudizio l'abbiano fatti filare, comunque. Vabbè, comunque lasciamoli fare, tutto fa festa. Interessante che le cose vadano sempre bene, che non ci siano incidenti, che non ci siano nessuna cosa di fatta male, per cui va bene così. Riprende Marco. Sì, vediamo se Natale può riprendere. Io se ci sei batti il colpo e anche due. Natalino, io riprendi, a Bisese, Luca, a Bisese, riprendi, tutti morti. Tutti morti, non sono morti, sono indaffarati e basta. Vabbè, dai, questa è l'ora, è allora nel desio, per cui è mezzogiorno e 17 minuti e 16 minuti là, per cui non è come me, ad esempio, che non devo pensare alla cucina, loro invece se danno da fare anche in cucina. Tu lo stesso fai qualcosa in cucina, Marco? Io no, io non so fare niente, tra l'altro, per cui a me mi vizia le basta. Ah, vabbè, cose base le so fare, cose base però, non roba elaborata. Oggi volevo fare così le sovraccosce di pollo, arrosto, però lasciarle belle umide dentro me. Devo ripassarmi, vabbè, i tempi di cottura. Vediamo, dai, se no faccio altro. Ok, vabbè, comunque. Non c'è problema, quello che si prepara si mangia e siamo bene lo stesso. Oggi qua sicuramente pesci, perlomeno ho visto che sul tavolo poc'anzi avevo messo dei pesci, mia moglie tolti dal frigo, per cui oggi si mangia sicuramente pesci, poi per il resto non lo so. Vabbè, ci sarà qualche insalata, senz'altro, e qualche altro piatto come il primo, eccetera, che adesso, boh, vabbè, ad ogni modo, tiriamo avanti, non c'è problema. Sì, aspetta, stavo ringraziando chi mi ha segnalato la cavalcata, dai. Ok. Vabbè, per i turisti va bene perché è ovvio, è una novità, vedono costumi belli, colorati, eccetera, insomma, molto folcloristico, dai. A me personalmente da bambino piacevano tantissimo, mi impaurivano un po', ma però erano pochi. Non i mamutone, se io li chiamavo, ma in realtà sono i merdules, quelli proprio con le pelli di pecora, con i campanacci, con le maschere poi in legno, con le corna di cervo, quelli erano quelli che mi piacevano, anche perché fanno tutta quella scena lì dei buoi, no, che li frustano e tante altre cose, dai. Ok, i mamutone sono quelli stessi, sono tutti loro, tutta la stessa combricola. No, ma se vogliono evitare di pasticciarsi la faccia come fanno, che ce la fanno nera, di carbone, eccetera, perché non ingaggiano un po' di questi randaggi che sono venuti dall'Africa, che sono già neri quelli, le dai la casacca, le dai e possono sostituire benissimo anche le persone dei sardi. Cosa ne dici tu? Dite africani niente come te lo gaiboni? Quelli sono neri come il carbone e servono a farli a carbone, a pirmi. È tutta carne bruciata quella, così qualcuno la definisce, poi non lo so. Però anche loro sono esseri umani e giustamente non bisogna assolutamente denigrarli, perché ci mancherebbe altro. Solo che vengono qua a fare prepotenti e avere troppe pretese, addirittura vengono trattati meglio degli italiani, soprattutto quando si parla di ambito ospedaliero oppure uffici tipo poste, banca, eccetera, eccetera. Sono considerati più degli italiani, che gli italiani hanno il diritto, che tra l'altro hanno pagato le tasse anche per loro, per questa gente che non ha mai avuto niente e vengono a sfruttare i nostri conterranei. Purtroppo è così, Omar. Cappa. Allora, qua siamo rimasti in due. Dalle. Io Natali, se ci si rispoglia almeno per i saluti, così magari chiudiamo. Io adesso vedo se farmi il bagno prima o dopo di aver cucinato, perché a mangiare mangiavo più tardi, alle 2:30 o 3. Vabbè, Marco, non c'è problema, se devi andare vai pure, ci mancherebbe altro, no? Se ne può fare a meno di parlare anche al baracchino, no? Se la gente non è disponibile, nessuno può avere le pretese che lo siano disponibili, ci mancherebbe altro, vorrei vedere. Vabbè, dai, Marco, non so se ti devo salutare, al limite decidilo tu, dai. Da così inizia a ingranare, che siamo un sonno stamattina, mamma mia, guarda, una cosa che non riuscivo a tenere gli occhi aperti, poi vabbè, ho fatto colazione, ho salutato qua che c'era Luca e Natalino, e così abbiamo scambiato per parole. Scappa. Sì, io mi attivo un po' in cucina e poi magari se stasera entra qualcuno in radio, bene. Ok, ciao Giulio, ci sentiamo. Buon pranzo, buon tutto e alle prossime. Ok, ciao Marco, allora ci sentiamo, dai, alle prossime. Stammi bene, buon pranzo. Io stasera difficilmente entrerò perché c'è il calcio, per cui sarò sicuramente davanti alla televisione vedendo le partite. Vabbè, ciao Marco, alle prossime, ciao. Ciao, ciao, ciao.